later that you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli c'è aria di sbaraccamento, Kappa e Drago notano che appunto c'è aria di sbaraccamento. Drago, ma c'è aria di sbaraccamento? Va bene, anche Tarek. Tarek, cosa stai facendo lì? Anche Tarek! Ho capito, Tarek, che metti tutto quello che avevi nel tuo rifugio dentro gli scatoloni, va bene, sì. Ma ti chiedevo perché... No, però Kappa, scusa, per amor di precisione, tu hai chiesto a Tarek che cosa stesse facendo e lui ti ha risposto che sta riempiendo degli scatoloni, anzi ha detto escatoloni. Ha risposto, tu non mi hai chiesto a che pro stesse facendo quel che stava facendo. Vabbè, ma fino a capire che sta riempiendo gli scatoloni ci arrivo, Drago. Quindi se gli chiedo cosa sta facendo, lui dovrebbe rispondermi, non lo so, sto facendo trasloco, oppure mi macellano fra poco e quindi raccolgo tutta la mia roba, cose così. Da Tarek non si riesce mai a cavare qualcosa di utile. Hai un bello spremere, ma succo proprio non ne esce. No, come i frutti acerbi. Sembra che anche gli altri polli stiano mettendo tutto negli scatoloni. Cosa significherà questo? Forse hanno annunciato un'alluvione. Quindi... Ma, sì, vedi, ma quale alluvione? Ma no, ma questi stanno per andarsene. Andarsene dove? Andarsene, Andersen K, Andersen. Come Andersen? Andarsene in dialetto parmigiano, Andersen. Le nozioni di primo di classe. Andersen, cognome scandinavo che significa letteralmente figlio di Andrea. Andersen. Molto comune in Danimarca e in Norvegia, si ricordano tra altri scrittori di fiabe Hans Christian Andersen, sciatore Reidar Andersen, calciatore Christian Bo Andersen. E stilista di occhiale Sven Andersen, che ha propria attività in Ginevra, Svizzera. Nessuno conosce gli occhiali fatti da Sven Andersen? Ah, molto male questo! Sono bellissimi tutti, invece sicuramente senza eccezione conosce le fiabe crudele e misogine di Hans Christian Andersen, tipo fiabe di Sirenetta. Ma allora forza, andiamo tutti di Ginevra a vedere il negozio di Herr Sven Andersen. Forza, via, coraggio! La fabbrica di polli. Però non si capisce cosa stia succedendo qui, eh. Proviamo a chiedere, scusa. Scusa? No, i galli non parlano la nostra lingua. Prova col francese, galli. Excusez-moi. Vous me comprenez, monsieur? Forse è un sans-papier appena arrivato da chissà dove. Ma il pollo dov'è? Non so, è un po' che non lo vedo. E l'amministratore? Relegato. Come relegato? Sì, relegato nel suo ufficio da tempo immemorabile. Sai che lui all'abbaino se ne sta lì come in una canzone di Finardi. Un amministratore relegato? Sì, comunque voi dovete fumare di meno. Però scusa, Drago, se tutti si stanno preparando per andare via, perché noi non stiamo facendo la stessa cosa? Non lo so. Mi insospettisce. Non lo so. Presto! Lorenzo Drago! I casi sono due! O scopriamo perché i polli stanno sgomberando, oppure ci mettiamo anche noi a sgomberare! Comandante K! Ma i polli non capiscono niente! E quando gli fai una domanda non la capiscono! E ti guardano con quell'aria da tonti, stanno zitti e non capiscono! Quindi è meglio se anche noi ci mettiamo a sbaraccare e succeda quel che succede, tanto non capiscono! Drago, neanche io ho capito. Presto! Tenente Drago! Allo sbaraccamento! Dannazione! È la contessa russa con la sua macchinona che sta arrivando a salvare il romanzo che stava fallendo! Tenente Drago! Cosa sta facendo? Ho detto sbaraccamento, non sbaricamento! Io il più bello elegante, il più sinuoso essere volante, io il più bianco, lucente intrigante, il più perfetto con l'assetto di un aliante, ridotto così come cadavere spiacciato, così come animale contagioso ammalato, era un sogno, ero il cigno più bello del mondo, sogno infranto. E questo stanotte è il mio canto, e questo stanotte è il mio canto. La fabbrica di polli. E Pollastri? Pollo, ma dove eri finito? Qui sta cambiando tutto e tu sei sparito, volevo chiedere a te. No, sono stato una settimana in infermeria. Oh, signore. Sì, ma niente grave, era un piccolo intervento di routine, ma adesso è tutto a posto. Va bene. Senti, ma cosa succede qua? Tutti che si preparano per andarsene. Andersen. Queste sono le solite ondate di psicosi che periodicamente colpiscono la fabbrica. Quindi non dovete mica preoccuparvi. Ma quindi niente di grave? No, non succede niente, come sempre alla fine. Insomma, psicosi collettiva. Sì, esatto, psicosi collettiva. La psicosi collettiva. Eh sì, perché qua dentro basta poco per creare una reazione a catena, eh. Se uno si tinge le piume di arancione, tutti si tingeranno le piume di arancione. Se uno si fa un tatuaggio, allora tutti a farsi il tatuaggio. Dallo stesso tipo che ha fatto il tatuaggio al primo, no? Poi metti che uno comincia a fare preparativi per andarsene, tutti lo seguono senza sapere neanche perché. È una specie di paranoia. Non è che vanno a chiedere al pollo che fa la valigia perché sta facendo la valigia, no? Al contrario, deducono dal comportamento del pollo che fa la valigia che anche loro dovrebbero fare la valigia. È una specie di riflesso involontario che appartiene solo agli animali. Fare la valigia. Voi forse non potete capire che siete ancora troppo uomini. Puoi dirlo forte che siamo troppo uomini. Non intendevo quello, cappa. E poi smetti di porgere in avanti il bacino. Ma no, sei preso un travolta nella fredda del sabato sera. Ma no, è la mia postura normale, no, questa. Vero, no. Sì, ho una schisi. Devo fare costantemente stretching lombare, così, vedi? Ho capito, ma non è che mi piace tanto che mi viene vicino così. Ma dai, ma dove scappi, pollo? Cappa, non importunare il pollo, dai. Vabbè. Allora, niente valigia, noi. No, ma scusa, cappa, non starmi troppo vicino con il bacino così in avanti. Mi fa impressione. È stretching lombare, drago. Sì, Non essere tetragono, ed io mi strafulmi se so cosa vuol dire essere tetragono. Ma lasciami stare. Ti faccio vedere io chi è troppo uomo adesso. Che cosa succederà adesso? La schisi di cappa lo trasformerà in un molestatore involontario di donne, uomini, vecchi e bambini. E come si risolverà la psicosi collettiva del pollame residente in fabbrica? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo ingovernabile allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com. Appena uscito dall'infermeria, no? È venuto a prendermi la mia amica. E allora è successo. Ma come è successo? Quasi subito. Ma non ti hanno detto di non fare niente per pulizia? Non ho detto niente. Ah no? No, ho detto vada. E sono andato. Solo che mi è venuto un po' di, come dire... sono stato chiuso una settimana lì dentro, Sì, in infermeria. E mi hanno anche rovistato un po' l'apparato. E sono uscito un po' così, molto sensibile. Sì. Però alla fine è venuta questa mia amica, no? E siamo finiti... sul pagliericcio.